prova. Cazzo Dio, c'è qualcuno? Hola? Sì, avanti. Sì, ciao Claudio, ben sentito. Ma sei più bassino adesso, dal solito? No, no, sta uscendo bene. Radio, segnale 9, radio 5, bella chiara. Il pony quello nuovo è questo. Ehi, ok, no, già ti ascolto bene. Se vuoi rimanere con questo, mi, per curiosità, fammi sentire l'MB più 5, se cambia parecchio. Ma la radio è buona, come voi. È un bel forte, sì, ha migliorato parecchio la radio. Il segnale è più o meno uguale, ma non è attaccato niente. No, radio 5, segnale quasi 9, sì. E va benissimo da parte mia. Ti controlli come ce li hai, solo per curiosità? Sì, sì, no, no, volevo dire come ce li hai regolati i tuneri con l'MB più 5. Sì, ti ascolto benissimo, solo per curiosità, mettili a 5, vuol dire a metà, diciamo. Oh, il Mickey Game va bene, i tuneri sto parlando. Dimmi una cosa, 5 vuol dire a metà, più o meno a mezza strada, né troppo alto né troppo basso, così. No, ti ascolto molto bene, prova a vedere solo per curiosità, chiudi tutti i tuni, tutto a sinistra, gira, e prova a parlare se cambia qualcosa. Bella. Mettili al massimo adesso i tuni per curiosità. No, a 10 non mi piace. Rimettili, mi fa il passaggio a 5 e poi li metti a 0 per curiosità. Mettili a 5 e poi ritorni a 0. Voglio vedere tra 5 e 0 cosa è meglio. Eia, a me mi piace più 0, sinceramente. Prova una via di mezzo tra lo 0 e lo 5, il 5. Rimettili a 0. Guarda, per i miei gusti questa è la posizione migliore. Io ti sto ascoltando con un altoparlante esterno e una radio seria. E magari in un baracchino questo lo sentono un po' cupo, perché il baracchino un po' ti toglie qualcosa di bassi, però ti posso dire così è più bella la radio. Chi te l'ha fatta le regolazioni a 5? No, guarda, da parte mia ti do la radio perfetta, il segnale ottimo, niente da dire, va benissimo. Io non la toccherei così, la lascerei stare, perché c'hai la voce tua naturale senza nessuna distorsione. Poi naturalmente bisogna vedere quando attacchi caricando qualcosa, se per caso un po' ti taglia gli acuti o ti satura qualcosa, così è perfetta, è in posizione, diciamo, senza dare aiuto, stai andando alla grande. Bella radio, non posso dire niente. Ehi, approva un pochettino, sei avanti. Non è cambiato niente, va sempre bene la radio, non sta saturando, pulita come prima. No, ti ascolto perfettamente, non toccare niente. Poi è bella la radio, ti posso dire, molto a me piace come tipo di radio, molto carina, ricorda un po' il patch che c'è, il frontalino in alluminio, quell'orologio è carino perché c'è anche i secondi, tutto funziona con la radio. Complimenti, dai, è una persona in gamba questo Nicola, non l'ho conosciuto, però detto da voi per come si sta comportando una persona di merita. No, anche io, quella che ho preso io di pony, lo stesso mi ha dato anche il rosmetro, il wattmetro, lo spezzone, più mi ha dato anche le cuffie belle bianche di quella radio. Lo so, Marco è micidiale, cioè, io avevo mandato un sacco di video, a me la testa di Marco mi piace per la precisione, la cura del particolare. Poi Mario è uno di quelli scrupolosi, Marco è uno di quelli scrupolosi che cura tutti i particolari, l'emissione, infatti lo chiamano voi voice lui, perché cura molto la voce. Non so se hai visto il mixer che c'ha tutto l'impianto, compressione audio, espansore di dinamica, c'è una marea di cose, proprio una radio fatta bene, diciamo. Mario, qualcuno ne può avere più di lui roba, però curata nei particolari come lui non ne trovi molto spesso. C'era qualcuno che stava parlando quando stai parlando tu, vediamo se vuole entrare. Avanti, che vuole entrare, avanti sul 10. Quando stai parlando tu c'era qualcuno che stava cantando la canzone di Carnevale, decine di radio, più di lui di vintage ce l'ha solo Walter, però dopo Walter c'è lui come quantità di radio, è pieno. Poi c'è una stazione di trasmissione moderna, diciamo, per l'utilizzo che ne fa lui, perché lui è un grande appassionato, oltre che essere un ottimo radioamatore, è un grande appassionato da sempre, forse di quelli che conosco è il più anziano di tutti come passione. Dai, io da quando ero ragazzino vedevo le sue antenne su dove abita lui e tutti dicevano a me questa è la stazione di Marco, ma ero ragazzo, giovane, lui c'era già con delle cose allucinanti, adesso ancora di più perché ci è voluta la tecnologia, c'ha delle belle radio, delle bestie di amplificatori, antenne micidiali, diciamo è uno che ci fa sentire tutto il mondo. Ciao Robe, mi senti? Sì. Aspetta un attimo, sta parlando. Aspetta che forse c'è Luca, tu Luca sì. Ehi, adesso mi senti? Sì. Ciao anche a Claudio di Muros. Sì, sono io Robe. No, ti ascolto bene Luca, perché poco fa quando stava parlando lui forse non l'hai sentito, ma l'ascolti a Claudio Luca? Sì, adesso sì. Forse allora probabilmente quando hai parlato tu non lo sentivi. Comunque ben sentito, ti rilancio a Claudio per i saluti, vai Claudio. Tu sei 7, sei 3, nel mio strumento segna 3. La radio è abbastanza buona, ti ascolto benissimo. se ora non c'è problema. No, è bellina, poi mi ha mandato le foto tuo babbo, ma mai è stata usata, quella dentro la scatola sua originale. Anche questa è nuova. Ma puoi trovare una radio dentro la scatola nuova, ho visto c'è tutto il polistirolo, il cielo, i cavetti ancora con lo spaghetto per legarlo, poi c'aveva il tanto manuale di istruzione, proprio mai visto una radio così vecchia ancora dentro la scatola, un baracchino avevo visto dentro la scatola mai usato, neanche acceso, come quella lì. E poi ti ha dato anche, cioè c'è un manuale del CB, ho visto con le fotografie che mi ha mandato tuo babbo. Ok, è rientrato anche Claudio Torre Contro. Avanti Claudio, in compagnia mia di Muros e di Luca Del Monte. Avanti Claudio. Eia, ciao, buonasera a tutti. KK. Robè, anche questo è nuovo. Non ha la scatola, non ha il manuale, ma c'ha il suo microfono originale, i suoi cavi originali, tutto originale. Sì, io l'ho fatto quel lavoro, infatti sto usando questa, Poni 23 canali con MB+5, non so quale è più forte, se è più forte questa o quella di Claudio, non lo so. No, state andando bene tutti e due, la tonalità tua è un pochettino più corposa, ma lui c'ha una voce più giovanile, un po' più acuta, però vanno bene tutti e due, sono uguali nella stessa radio perché c'è. Sì, ti ascolto benissimo, non molto amplificato, ma comunque sì, io ho tirato su l'LC come mi ha detto tuo padre, io sto usando però un microfono e dell'iGain, ok? Questo è un microfono da tavolo dell'iGain, non è l'MB+5, ce l'ho a metà praticamente, a metà. No, i toni non li devi toccare se stai usando l'MB+5, devi sollevare leggermente l'amplificazione per me. A Roberto lascialo perdere, che lui c'ha l'orecchio troppo fine, capito? Aumenta questa radio, io. T'ho detto i toni non li toccare, mettili a zero, mettilo a uno il tono, così la devi lasciare, come lo uso io, come io uso l'Inoit. Tono a 1 e Michigan a 5. Il Pony funziona così. Il tono lo metti a 1 e Michigan lo lascia a 5, perché non ha Michigan, capito? Quindi vuole un po' più sollevato. Mentre l'Inuit, avendo il Michigan, io lo tengo un pochino più basso. Però siccome siamo tutti col baracchino, è inutile che tu chiedi un controllo a Roberto, lui ti ascolta con una radio professionale e quindi si adegua alla sua radio. I controlli con i baracchini li abbiamo fatti, lasciala così perché io con questa radio ti sto ascoltando benissimo, stiamo usando tutte e due la stessa radio e ti sto ascoltando stereofonico, perfetto. Avanti Roberto. Più o meno come ho fatto io, infatti era il Mickey Game, lui aveva 4 e controllo di tono a 0, appena l'hai messo sollevato un pochettino, ma siamo lì, dai, c'è anche Luca, facciamo riprendere a Luca. Ma se tu lo ascolti con una radio di quelle, così io lo ascolto col K, è diversa la modulazione, quindi conviene fare regolazioni con i baracchini, io stando col baracchino uguale al suo, praticamente ce l'ho senza toni, perché questo microfono non ha toni, però ce l'ho a 5 il microfono. Non è vero che sta spingendo abbastanza bene. Tu stai facendo liscio qua. Io ho detto, quanti watt da questa radio? 3 watt da. No, sta andando forte, vabbè, siamo troppo vicini. Anche lui sta arrivando discretamente, cioè dice sta caricando una trentina di watt, ma lo sento molto chiaro, anche poco fa quando era pulito, tirava quasi Santiago Novera con la potenza della radio. No, io sto andando con 3 watt, non lo so, quanti watt ti date quel Pony? L'avete misurato? No, io lo lascio originale, capito? No, non lo tocco, assolutamente, questo c'ha 4 watt, 5 watt modulati, no, non di più, lo lascio stare così. Così non ho toccato niente, ho solo toccato quel trimerino che mi ha detto tuo padre per la LC e l'ho portato su perché prima era molto molto più basso la modulazione. Adesso va bene anche con il microfono normale, visto che la lancetta si muove, prima non si muoveva, capito? Va bene, sono ottime radio, questa è nuova lo stesso, solo che non ha la scatola, non ha il suo manuale, ma c'ha tutti i suoi cavi originali, perfetta, sia il cavo di alimentazione a 12 volt, sia quello a 220 suo originale, microfono originale, i connettori sono tutti originali, va bene, manca la scatola e il manuale, pazienza, non è che questa tra l'altro non era residuo in magazzino, era in vendita così. Va bene, avanti Luca se ci sei. Luca non c'è, vabbè, riprendi tu roba, dai. No, neanche visto, piovendo sta. No, non gli ha dato pioggia stasera, da stanotte, domani c'è pioggia forte. No, neanche visto, però verrà un bel freddo, oggi ho sentito freddo io, e anche ieri. No, qua non c'è nessun freddo, qua c'è il riscaldamento acceso dalle 3 e si sta benissimo, ho già abbassato tutti gli avvolgibili. Così non entra freddo e si sta alla grande. Avanti, Claudio, riprendi, dai. Scusa che ho sbagliato il microfono, perché c'ho l'altro vicino. Siccome li ho comprati nuovi, e quindi stavo sbagliando il microfono. Va bene, va bene. No, ma lascialo così, è ottimo, no, non ce n'è problema. Sono radio vecchie, cos'è che vogliamo? No, è già troppo che funzionano. Io ce le ho tutte perfettamente funzionanti, meno male. Avevo qualche problema con qualche microfono da tavolo, sono andato a Fusaro, mi sono comprato in ufficio, si abbiglia in culo, intanto. Stai lì con questi microfoni vecchi, li paghi usati 50 euro, quando con 60 euro te lo compri nuovo. Va bene, ho comprato un più 4 e un più 5, uno l'ho messo al Midland, al 574, e uno l'ho messo all'Inuit nuovo, tutti e due nuovi. Avanti, Robè. No, ogni tanto poi i microfoni è meglio farli funzionare, se li tieni troppo tempo conservati le capsule tendono a cosa? A inchiodarsi, è normale, è fisiologico. Perde un po' di magnetismo il magnete della capsula, per cui non ha le stesse prestazioni, magari lo senti il cupo gracchiante e tutto dipende da quello. Ogni tanto, infatti adesso questo TAN e gli altri, l'MS100, l'altro che c'ho, ogni tanto adesso provo, se domani riesco a trovare 5 minuti, faccio circolare anche le altre radio che sono ferme da parecchio. Già il patch stava iniziando a gracchiare il microfono, pensavo che fosse il microfono, invece era la radio, e quello del Mickey Game, bisogna soffiarlo bene e pulirlo, perché sennò ci perdo più tempo, magari poi devi cambiare potenziometro. Ok, di nuovo Claudio Di Muro, su a te. Ma si è abbassato il segnale, Claudio? Sì. Adesso è tornato non... Diglielo, c'è un falso contatto. Oh, Claudio Di Muro, guarda che c'hai problemi, tu passi da 9,5 e scendi a 4 di segnale, a colpi. Non so se c'è qualche cavo, qualche spezzone messo male, o che non bruciare la radio o il coso, o l'amplificatore. Ti ascolto, ma sei basso, sei 5. Quando non sei attaccato sei quasi 9, e poi passi 9,10 attaccato. Tieni presente che come muovi qualcosa il segnale sale a 9 di nuovo. Probabilmente c'è qualche cavo che la calza non è infilata bene, non lo so, in perdita. Niente, non stiamo parlando di stazionare, muovi il cavo, mettiti un wattmetro, non guardare sulle stazionarie, mettiti il wattmetro e ti rendi conto che c'è un cavo che secondo me non sta funzionando. No, sei calato a 9,20 a Santiago 8, controlla il cavo dell'antenna, lascia stare il wattmetro, controlla il cavo che è attaccato al baracchino. Cacchio, cacchio, antennai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cosa sono? No, uno è un TAN, l'ultimo è un TAN, ci sono 7 MB più 5 o più 4, sono più 5. Sì, MB più 5 è 1 MB più 4, uno per ogni radio, 7 radio, 7 microfoni da tavolo. Sì, non tocco, mi sembra, lo so cosa sembrava, quelle postazioni quando c'erano i posti di telefono che andavi a telefonare, che ti passavano il coso, le telefonate. Belle. 2,30 metri tutta lineare, e poi dall'altra parte hai visto l'altra base e l'HF. Tutti i vinte sono qua, in questa postazione sono i baracchini, l'altra postazione sono gli HF. Non si mischia la lana con la setta. Ho riconosciuto la scrivania. Hai visto? E allora, serve quello. Serve. Mi è servito. Poi c'è il cavo che entra sotto, c'è il commutatore d'antenna dove commuto da una parte all'altra, un bel lavoro, non c'è un cavo che si vede, tutto l'ho fatto alla perfezione. Ci sono due MC60, l'altro cos'è? Un SM cos'è? Dalla IAESU quel microfono? No, quello è l'MC50 del 430, il 430 lo uso con l'MC50 perché lo uso in banda laterale molto, capito, in HF, quindi troppo forte l'MC60, allora uso il 50. Cosa c'è dopo il C80? Cosa c'è? Cos'è un C80? No, quello è un 140. Dopo il 140 cosa c'è? La seconda radio, cioè altoparlante. 140 è un'altra radio dopo, che cos'è quella? 440? No, ne ho 440, quello è il 430, guardalo bene. C'è il 430 e l'altra è l'altro 140 che devo mandare ad allineare. E l'ultimo cos'è? L'ultimo è il PS50. Ok, quale radio c'è? Il DAC, vedo uno, cos'è, un Sommercamp 1, boh, il primo sopra cos'è? No, c'è il DAC, non si vede, se non te la faccio, l'ho fatta dall'ingresso della porta per far vedere com'è il lineare. C'è il DAC, poi c'è quello sopra, è il Midland 574, sotto c'è l'Inuite 294, poi a proseguire c'è l'Inter 3104, sotto c'è lo Standard 020, poi in fondo c'è il Pony e sotto c'è il Patch. Ehi, sì, sì. Sì, adesso va bene. No, sto guardando qua, la prima immagine che vedi, la prima radio, prima del DAC, sotto cos'è? Quello è un amplificatore, mi sembra, o sbaglio? Sì, quello è l'amplificatore, quello è il TL911 della Kenwood. Capito, però non è in attaccato, l'ho messo lì perché mi serviva spazio nell'altra scrivania che è più bassa, che è più piccola, e l'ho messo lì, però non è collegato, sì. E sopra c'è un'altra radio vintage. Ma non è un CB quello? No, è sempre un HF vecchio, è unicom vecchio, un 720. E quello che c'è prima dell'amplificatore, cos'è, un alimentatore? Quello che c'è prima dell'amplificatore? No, sono i portatili. No, non portatile, si vede una cosa, sembra uno strumento che c'è sotto, un rosmetro, cos'è? Un rosmetro. Ma da che parte? Dalla parte dei vintage? No, è lo strumento dell'amplificatore. Ah, sembrava che sembrano due apparecchi, invece è tutt'uno, no, sembrava un riflesso quello lì, niente, come l'ho detto. Quello inclinato invece, il penultimo, prima del coso, dell'Inuit, del Pony, che cos'è? Che radio è quello inclinato? Inclinato, quello a fianco al Pony, in alto è l'Intec 3104. Sotto c'è lo Standard, che è quello è introvabile lo stesso, lo Standard 21020, e poi c'è il Pony e sotto c'è il Patch, il 2008R. Ah sì, 3104 è quello inclinato, e prima del 3104 che radio è quello? Quello è il 574 della Midland a fianco. No, ho capito, più o meno già le conosco le radio. Non mi fate una idea di quei microfoni tutti allineati, belli, cacchio. Cioè avere una casa con tutti quei microfoni tutti uguali in fila, mai visto. Ma poi tu devi vedere la linea, cioè sono tutti allineati, non è che uno è dentro, uno è fuori, lo spazio tra uno e l'altro è uguale. Precisione per precisione. L'ultimo cos'è? L'ultimo microfono, cos'è? Un Tanner quello? No, quello è le gain, quello che ti ha dato a te a provare col Pony. Quello lì sto usando io adesso. No, cosa va bene. Ma hai cambiato stanza, non erano quale radio qua? No, queste radio erano tutte dentro gli armadi, qualcuna l'ho comprata e gli altri erano dentro gli armadi. Fabio, la stazione tua non era qua dentro, era in un'altra stanza. No, era qua, questa base dove sto parlando adesso, questa era quella HF. Poi c'era qualche baracchino. Però mi sono stufato, ho detto adesso faccio due basi diverse, una base vintage con tutta la postazione vintage e dall'altra parte mi metto tutti gli HF. Ho spostato tutti i cavi, l'alimentazione parte dalla parte degli HF per alimentare solo il 294 però, il 574. Gli altri sono tutte 220, capito? Io sotto ho fatto fare dall'elettricista una scatola a muro con tutte le prese attaccate a salvavita e sono collegate tutte lì. Il cavo d'antenna arriva dall'altra scrivania con la commutazione e la inverto man mano che uso le radio. Ho capito, ma la radio prima, quando era venuto anni fa io, erano messe di traverso, non erano, cioè il bancone non era messo in quella direzione lì. No, era L, roba, infatti ci manca l'altra base uguale a questa. AL, però AL non riuscivo ad aprire la finestra, mia moglie non poteva pulire il vetro, allora ho fatto due basi, una a muro e una a muro. No, è bella, diciamo, è funzionale, ti giri, da una base fai delle cose, dall'altra ne fai delle altre, non hai bisogno di spostare, di fare, ti giri la sedia e fai. No, ma c'è anche più spazio, c'è più spazio, prima non c'era spazio di niente, perché le basi erano talmente grandi, poi era L, capito? Io stavo mezzo praticamente. E niente, dovevo passare dietro, c'era lo spazio per passare dietro, così è più ordinato, più pulito, puoi fare tutto quello che vuoi. Avanti K, adesso uso, adesso cambio antenna e uso il 294, così Robè ti faccio sentire la differenza che c'è tra questo microfono con questa radio e il 294 Renoite, che è quella che secondo me pompa più di tutti. Riprendi Robè che cambio antenna. Guarda, io non voglio dire, però questa radio che sta utilizzando adesso è molto piacevole come modulazione, bella, pulita, chiara, non posso dire niente, sembra una radio di un certo livello, non un semplice baracchino. Lo so, però adesso ti faccio sentire l'Inuit ed è ancora più bella di questa. Ok, vai tu Claudio Lamuros. No, qualcuno sta usando la gain di un vecchio apparato vintage, no sta uscendo bene, no, non posso dire niente. Molte volte magari non è piacevole sentire i vecchi baracchini perché magari sono troppo citofoni, cioè adesso sta andando bene, non posso dirgli niente. Vediamo se ha riattaccato l'altra radio. Avanti Claudio. K, ok, questo è l'Inuit 594, cioè affanculo, il 294. Ma non lo so qua se è meglio questa dell'altra, questa la sento un po' più lontana, ma ti sei allontanato, un po' più effetto ambiente sento con questo microfono. Questo è un po' più, perché c'è un micchigin, aspetta te l'abbasso leggermente, ecco qua, dovevo... sì, questa spinge un po' di più perché c'è il mic gain la radio, capito? Quindi sembra un po' dispersa, mentre invece quella là è un po' più chiusa come radio, capito? Però è molto bella anche questa, Tu mi ascolti bene, Claudio? Cappa, va bene. No, va bene, le radio sono diverse, ripeto, questo in più di quella del Pony c'ha il mic gain, quindi spinge un po' di più e sembra un po' più dispersa la modulazione. Però è molto molto bella, dai, molto molto bella. Avanti Robert, riprendi. No, claro, non per dire, sono tutte e due belle. Mi piacciono tutti e due, c'è proprio una differenza percettibile, me ne accorgo perché ti sto ascoltando con l'altro parlante esterno, probabilmente con un qualsiasi baracchino non te ne accorgi, perché è talmente impercettibile, la dimensionalità è più più spaziale come emissione questa qua, si sente un po' pure di più l'ambiente circostante, cioè ti dà un senso della dimensione della stanza, l'altra era un pochettino più chiusa, ma perfette, mi piacciono tutti e due, non sono di quelle abbulutose, disturbate, chiara, pulita. No, ho fatto il lavoro che dovevo fare, dai. Questi sono microfoni che vanno bene per queste radio. Ottimamente bene. Questo è l'MB più 4 con l'Inuit, con 294, capito? Mentre l'altro, come ti ha detto Roberto, sul Pony c'è un vecchio microfono vintage della Gain, sempre da tavolo, nuovo, nero, molto bello. Cappa, scelto un attimo di bianco, per vedere se voleva entrare qualcuno. No, va bene, ti posso dire che stai andando benissimo, non toccare niente, curati un po' la parte appunto degli spezzoni, quella cosa lì, però va abbastanza bene, non c'è problema. Ok, sì, ma li sto facendo girare un po' tutti, anche l'Inter che va bene, il Pony, il Pace, vabbè il DAC, quello che è, lo standard l'ho usato l'altro giorno, che ce l'avevo, vanno bene tutti, anche perché, come ha detto Roberto, io ho un microfono da tavolo per ogni radio, ne ho comprato due nuovi, che sono questo più 4 e il più 5 sul 574. Capito? Tutto qua. Gli altri sono tutti microfoni usati, nuovi, lo stesso, che vanno bene. Però questi due li ho voluti mettere nuovi, almeno non hanno problemi. Avanti Roberto. Ok, ecco la radio che non è un baracchino, il primo attaccato all'amplificatore, che cos'è? È la H27? Sì, ti ho detto che è un 720 della Icom. Ma l'ha fatto mai funzionare qua? Certo l'ho fatto funzionare, certo che funziona anche quello. Funziona alla grande. Boh, forse non me lo ricordo allora. Ok, vai Claudio Di Muto, tocca a te. Secondo me Claudio, visto che anche tu c'hai diversi baracchini, mettiti un commutatore serio però, di quelli che proprio ti tagliano il segnale, così non fai danno, non quelli di ZG che non vale nulla, quelli con lo proprio di precisione, che hanno lo stacco completo del segnale. Mettiti quelli lì e ti metti gli spezzoni fatti da te, non di quelli comprati che sono una cagata. Ti metti saldati bene con i connettori, quelli, come si chiama, quelli contenendo connettori, se li trovi quelli della Amphenol in coso, in bacchelite ancora meglio, e te li fai per te ne porti 3 o 4 di uscita, se ce li hai e non stai ogni volta a toccare a fare, perché muovendo oggi e muovendo domani poi piano piano ti crei problemi, l'hai visto? Se non te ne accorgi ti bruci la radio. Cazzo, pensavo sta vicino a me. Avanti. Io c'ho quello là, dai, va. Che avanti, chi sei? Luca, che avanti, che chiama, che ha fischiato. Claudio, ci sei? Claudio Torre Controllo. C'è uno che ha detto K, non ho capito, mi sembrava la voce Luca, ma era Santiago 2, non so chi sia. Avanti, chi sei? Boh, l'hai ascoltato tu, Claudio Di Muro? Un attimino, mi allontano, arrivo subito. Via. Sta fischiando però, chi è? Avanti se vuoi entrare. Adesso faccio una prova, scusa, ma... Chi è? Avanti, chi chiama? Ho sentito, ha detto ciao Claudio. Propagazione, adesso Santiago 9. Lo senti? È più che l'altra Italia, a me sembra più bassa Italia. Attenzione all'amico che parla qua, Nodo Sardegna che chiama, se lo copia, avanti. Mi pare più siciliano questo qua. Avanti qua, è Brecchi della Sardegna che chiama. Boh, vabbè, probabilmente non ci ascoltano, dai. Ok, ma era lo stesso di prima? Allora Claudio, voglio fare una prova che tu sei più lontano. Senti questa modulazione con questa radio 1, 2, 3, prova canale 10 27075. Adesso cambio radio e mi dici cosa noti di differenza, se è più alta, più bassa. Un secondino e faccio la prova, ok? Questa è un'altra radio, come mi ascolti con questa radio? Come chiarezza cambia qualcosa? Questo è il solito V44, quell'altro era un'altra radio un po' superiore, dai. Vabbè, bisogna fare regolazioni diverse per farla uscire, quella là. Ok, no, l'importante è, questa però è molto più rumorosa, adesso per il segnale di quelli lì io l'ascolto 7, di quelli che sento lontano, però c'è un QRM allucinante sotto, mentre con quella più grossa il segnale è più basso, ma lo segnale più basso, però QRM non è sento. Ok, vediamo se quelli ci ascoltano, attenzione! Qua la Sardegna che chiama, Brecco Brecco, ha registrato il Brecco l'amico comunque, ha detto di sì. Aspetta, rimetto l'altra radio, vediamo un po'. Questa è meno rumorosa di radio. Adesso sto uscendo, guarda, è stato un po' il Mickey Gain adesso, meglio va, che mi avvicino un pochettino, ah, vabbè, qua posso salire parecchio, adesso sono più vicino, guarda se ancora, ma di tonalità noti molte differenze tu. Ehi, ok, vediamo un po' se gli amici qua del continente si ascoltano con la Sardegna, avanti se copiate la città di Sassari, avanti, vabbè, riprendi tu Claudio. No, mi ha risposto, il problema è che stanno parlando tra di loro, io ne sento solo uno dei due, o dei tre che siano, non lo so, e mi ha detto, ho registrato il break Sardegna, l'ho chiamato, adesso vale, stanno ancora parlando tra di loro, buh, vediamo un pochettino, se ci hanno copiato lasciamo un attimino di bianco, se no riprendi tu, avanti l'Italia continente che chiama. Orizzano, chi sei? Sì che ti sento, da 9 moduli, da Orizzano addirittura. Fenera. E nel fondo, vabbè, se sei veramente da Orizzano ti ascolto, radio di 3, dammi un controllo a me, qua a Sassari comunque, e Muros anche. Fenera. Vabbè, ma quando mai? Non lo so, non lo so, qua arriva Santiago 1, chi sei Tino? Buonasera, tanti auguri. Auguro neanche a te Tino, non lo so, una voce che non conosco, non so chi sia, il segnale è a 1 qua arriva. Avanti amico, come ti chiami? Presentati. Boh, io non riesco a capire se sta scherzando o ridendo. Comunque, qua Sassari, dove sei? Ti ascolto bassissimo, la radio sarà 2-3 e il segnale 1 qua. Ciao Tino, ti rilancio Claudio Lamuros avanti. Ciao Claudio, ciao, buonasera, non so se arrivo dalle tue parti, comunque. Beh, ritenetevi tutti salutati, sono in Correx che sto facendo cosa al PC, dai. Riprendi Roberto. Poi Tino, non so se te l'ha detto Claudio, di quella storia, di quell'altoparlante esterno, te ne accennato? Sì, sì, poi ci siamo visti con Claudio, ma non abbiamo concluso perché ci siamo visti per altre cose. non ci ho pensato, per dire la verità. Se ti interessa il discorso, ci mettiamo d'accordo e ci sentiamo. Tanto io vi voglio fare l'abbinamento perché il colore non mi piace, anche se nuova, però il colore non mi piace. Vabbè, va bene, già è fattibile la cosa, glielo ho detto. Però devo trovarmi perché adesso il 4 io inizio a lavorare, sicuramente dovremo andare a Pirfugas, quindi parto presto, rientro tardi, bisogna organizzare un sabato, una domenica mattina, capito? Vabbè. Ok, non ti preoccupare, non c'è fretta, dai. Solo a saperlo se eri ancora, se eri disponibile, solo quello. Poi per farlo troveremo il momento opportuno e il luogo opportuno. Ok, ti lascio il mic di nuovo a Claudio. Avanti Claudio. Si apre la finestra, vabbè tu no, ma io si apro la finestra glielo vedo anche. Infatti mi pare il fianco di Valla, anche a me, dai. Infatti mi pare un po' strano che riusciamo a sentire un ritardo. Comunque se diverte, lasciamo divertire. Anche io posso dire che sto modulando da Parigi. Comunque dai, la simpatia molte volte è piacevole. No, ma io stavo ascoltando quelli di fuori, quelli continentali, ci hanno rilanciato, hanno detto il Mac registrato, adesso vediamo se ci sono ancora. Avanti gli amici su del continente, si ascoltano qua la Sardegna che chiama. A me maricoso, Franco da Sorso, dalla voce. Franco tu sì, Franco tu sì. Boh, se sei tu Franco, stai uscendo basso, basso, basso. Allora sei Luca di Porto Torres, dimmi tu, presentati. Franco Giuseppe. Comunque, dal Sorso, sei zona del Sorso, mi pare, così è. Infatti la c'è tragitto, visto mi pare continentale di Sussu. Comunque Roberto da questa parte è ben sentito, c'è Claudio Lamuros, c'è Rattino di sfuggita, adesso è entrato il più forte del monte, Luca del Monte. Avanti Luca. Qui sei Tucchino, sei Tucchino, avanti Toscana, ascolti Sassari. Allora, tutti i macchi sono a Sassari, allora. Buonasera, Antonio Giuseppe. Tutti Zarradi, ma tutto il rosso. E tutti Luci Crove, ma Sassari, avanti, riprendi Claudio Lamuros. Mi sa, l'hai copiato, Antonio Giuseppe a Claudio Lamuros, l'hai copiato? Come arriva così in basso lui? Può avere un antenino, roba. È proprio in mezzo al fondo, lo sento io. Come mi ascolti tu? Così si chiama Antonio Giuseppe, come mi ascolti di dalle tue parti? Hai sentito qua? Hai detto che ti sente, non riesci a superare il surco, si chiama a superare il QRM tu, dai, a me mi ascolta a 5, dai, già qualcosa riesco a farmi sentire. Ok, vai Luca, a te il mic. Adesso mi dico, arrivo nel tuo cun, arrivo, vedo un po', 1, 2, 3, pronti, prof, avanti. Forse sono Guguri con il numero da controlli io. No, mi dite di batte, non so Gugli sui, forse in bagnano di basso, non so Guguri con il numero da controlli. E non tragi mai domandato, vedi, tu arrivi Santiago 5 qua. Infatti non pago. Avanti roba, riprendi. Arrivi Santiago 5, Radio 7, Luca, dalle mie parti. Tu sì, Radio 9, segnale 9+30. Era uno, avevo sentito una volta uno parlando, segnale 5 radio 10. Vabbè, ma in base al suono di voce, no, la timbrica, la sai, all'emissione della radio, no? Tipo Claudio Castellino, ma credo erano radio 10, poi come esce lui. No, era uno che non ne capiva, nel senso stava iniziando, un tipo che c'aveva la radio probabilmente la prima volta e gli avevamo spiegato i segnali, come funzionavano, e la radio in base alla qualità di emissione, e questo è tu, c'è cioè, Radio 10. Scappa di brioche, avanti Antonio Giuseppe, quanti di butti stasera in chiva a pettardi? Bianco un attimino. Ne so qui, no, chi parlano, no, pettardi, no, bombe, ma veramente è sullo stesso della parola, bombe. No, la concessione l'hanno abolita. Boh, è uscita sulla gazzetta ufficiale che non si paga più. È uscita sulla gazzetta ufficiale, guarda, vai su internet e controlla. Che è tutto abolito. Il decreto, Antonio Giuseppe, il decreto del 27 luglio ha abolito la concessione e anche l'autorizzazione per detenere, per l'inizio attività, non è più necessario. Chiunque può prendere un macchino e parlare, anche in PMR. E vai Claudio. Che l'hanno fatto per ridurre e agevolare la burocrazia, cose inutili, tanto solo in Italia esistevano queste porcherie. Dimmi un po', ma insomma il campo lo stai ancora utilizzando, Claudio? Quello bello grosso, stato nel base, che mi ascoltavo sempre io e mi piaceva un bel come modulazione, ma poi è bello perché non è neanche troppo grande come stazione base quel pony, te lo metti sul comodino dove vuoi tu e c'è l'alimentazione a 220, non hai bisogno di problemi di alimentatori o di porcherie varie, attacchi la corrente, ti metti l'antenna e stai andando. È bello per quello perché non è enorme, come quello all'altro, il 3104 della cosa Intec, anche se diciamo è tutto plastica, non è la stessa cosa confrontato a quel pony. Il pony è più carino, però anche l'Intec nel suo piccolo, quello che c'è Roger Bippel, ecco, ce l'ho uguale io. Sono rientrato, Ok, è rientrato Claudio, avanti Claudio. Rispondi. No, vabbè, tanto ha concluso la conversazione. No, ho visto che ti stai appassionando soprattutto per i DX, c'è il tempo di farlo. Buon per te, dai, già è bello anche quello lì. Cosa volevo dire? Aiutami, il fuori invece è soltanto 23 canali, vabbè, tanto già siamo 4 gatti, basta e avanza. Però ti posso dire che esce bene, dai, sono contento che hai trovato una bella radio che fa uscire bene. C'erano tempi passati, c'avevi sempre qualche problemino di saturazione, di coso, di alternata. Adesso fortunatamente tutti i problemi li ha risolti e sono contento. Io qua stavo mettendo a posto, avevo due microfoni fuori linea e quindi ho fatto la misura col metro e li ho messi in linea. Mettici il velcro sotto così non si muovono e rilasci il collate sotto. No, stavo, perché c'hai le cavetti che sono nuovi, quindi non stavo un po' tirando per essere un po' più perfetto, nel senso che non dia fastidio, capito? Tutto qua, va bene, poi chi è entrato l'altro? Perché io fra un po' vi lascio e sto cucinando, sto facendo, c'ho roba a fuoco, quindi sono un po' va e vieni. Allora c'è Antonio Giuseppe da Sorso e Luca da Sassari dal Monte. Vabbè, vediamo se Antonio Giuseppe c'è ancora, avanti per te il mic. Io sono io, che non mi intendi? No, io sono sempre più forte, non posso essere pure più deboli. Buonasera e ben ascoltato, io sto andando con un baracchino degli anni 70, basta, 4 watt. Noite, oh, l'hanno eliminata, tanto non ti preoccupare, l'hanno eliminata, non si paga più, c'è uscito il decreto legge, c'era nella gazzetta ufficiale, non si paga più, solo per noi radioamatori e basta, solo i radioamatori pagano la concessione, io la pago entro il 31 gennaio devo pagarla e basta, i CB non pagano più niente, no, non paghi nulla, tu non devi pagare nulla, tu sei un CB e non hai di pagare nulla, poi puoi avere pure l'elicottero, non devi pagare nulla. E non agio gonfietta che per non agio, ma lo bannito io a viraggio. Ehi, oggettivo, no, non ce n'è di bagna questa notte. La notte cotte, gambe, roba, formaggio, salsiccia, tutta roba licchita, cordola, lenticchie, zamponi, zampe di gallina, di oca, di tutto, beh. Avanti muro ciò. E a Cane niente li state dando? A Claudio, a Lugani niente, da cosa li sta dando? No, cane mangia le sue crocchette di manzo, io andavo, è ancora drumido, aspetta quando iniziano a sparare, a ver se si scende lo giorno. Uia, per carità, no, il cane non le mangia, infatti, Roberto, il cane mangia le sue crocchette. A pranzo gli ho fatto un po' di riso in bianco con la carne macinata di pollo, capito? Giusto perché è festa, ma poi stanotte, la notte non cena lui, cena solo a pranzo da solo, capito? Ho fatto 200 grammi di riso con la carne macinata, ma va domani a mangiare, perché sennò ingrassa troppo, io un poco. Così, no, pensavo che ci avesse gli orari anche lui, perché ci sono quelli che fanno anche il pranzo, la cena ai cani, no, meglio così, mangia una volta sola, l'ha riegato, cioè senza stare tutto il giorno mangiando polpette o coso, avanti. Ok, avanti Antonio Giuseppe da Muro, mi da Muroso, da Sorso. Ehi, vai Muroso, dice che non ti ascolta. Ma dimmi una cosa Claudio, ma tu di stufa ne hai una soltanto o più di una? Ehi, no, sarebbe meglio non stare sempre attaccando il cave, cioè se tu adesso stai preferibilmente usando questo pony o qualunque tipo di radio, tieniti sempre vicino con l'amplificatore e non stare sempre staccando e riattaccando, perché i cavi anche entrando e uscendo, alla fine le connessioni non sono più efficienti, è sempre meglio lasciarlo fisso e poi l'altro amplificatore te lo metti da un'altra parte, in un'altra stanza, magari dove lo usa tuo padre, così è più sicuro l'impianto. Una bella massa a terra li metti se riesci a farla, così anche per qualche disturbo non hai problemi. Ok, avanti, torre di controllo a te il mic. No, riprendi Claudio un attimino che mi ha chiamato mia moglie. Sì, no, fateli bene gli spezzoni, se poi riesci a metterlo sopra la radio, il coso, il come si chiama, l'amplificatore è meglio, lontano dalla radio, se c'hai ti metti due ripiani in modo che non si disturbino uno con l'altro. Un'altra domanda, ma transistor non ne hai, sono tutti a valvole quelli che hai di stufette? Ma hai toccato qualcosa? Perché di colpo ti sei salito di segnale. Guarda che c'è qualche problema, tu stai salendo da 9,5 a 9,25 di colpo, o stai muovendo qualcosa. Adesso sei un po' più di 9, ma ti stai aiutando o sei pulito? No, forse è qualcuno che vuole entrare. Avanti che vuole entrare, no, non sei tu, no. Se stai uscendo pulito, troppo forte era il segnale. Avanti che vuole entrare, perché saliva a 9,30 il segnale, non puoi essere tu. Da 9 a 9,30 è impossibile se sei pulito, perché sentivo colpo tipo portante, sembrava che ci fosse un falso contatto, ma non sei tu, qualcuno forse o che non sta uscendo o ho voluto dare un colpo importante. Avanti comunque, se vuole entrare l'amico qua, canale 10, nulla, avanti a te Antonio Giuseppe se ci sei. Ehi, anche se non ti ha sentito, Claudio ti saluto anche da parte sua, perché dice aveva difficoltà a sentirti, ti manda i saluti, te li rinnovo anche io, tutto quanto quello che desideri, buon anno, sperando che sia molto ma molto meglio di questa porcheria che abbiamo appena passato. Avanti Claudio, a te. Sì, sì, Antonio Giuseppe, ti cambia i saluti anche Claudio da Muro. Su una domanda a Claudio, ma la radio migliore, non parliamo in trasmissione, in ricezione qual è? Ehi, no, te lo sto dicendo questa domanda perché quando c'è, per dire, la situazione di oggi con Antonio Giuseppe che è molto lontano, non riuscite a sentirmi, magari con una radio un po' più sensibile e magari riesce a tirarlo fuori. Eia, ok, io rimango ancora un paio di minuti, però devo andare via, che devo andare qua da mia sorella, tra l'altro devo ritirare anche delle cose e devo fare tutto. Dai, rimango due minuti prima dei saluti e vediamo se deve entrare qualcuno. Buonasera a tutti, buon anno a tutti, Brecco. Mi Antonio, Antonio, per caso è venuto uno dell'officina da me a prendere una bombola stamattina? Non lo so, era tutta la mattina fuori. Non lo sai perché, Anto? Era mio fratello e non aveva... C'è venuto, certo che è venuto, lo so che è venuto. Non aveva la bombola di ricambio. Gli ho detto, guarda, se c'è Antonio, dilli che per me, penso che te la dia, ma gliel'avete data comunque. Sì, ma ci mancherebbe, poi già... Ok, c'è anche Claudio di Muro, se te lo rilancio, perché io adesso tra pochi secondi faccio correte. Avanti Claudio. Cappa, buonasera, Chiodo Arrugginito, buonasera. Mi sono appena arrivato a casa, fra un po' mi lavo dal lavoro, sono stanchissimo, sono. Buonasera. E dai, io riprendo per salutarvi, adesso devo far cosa e poi devo andare a casa di mia sorella. Ok, vi saluto, vi rinnovo tutti e due gli auguri anche agli eventuali amici qua sul canale 10. Auguroni a tutti e io faccio corretti. Ciao ciao, eventualmente ci sentiamo domani, se coincide così ci facciamo un'altra chiacchierata. Ciao ciao di nuovo Claudio e ciao Antonio, l'altro Claudio Torrecone e tutti gli eventuali amici. Corretti da parte mia. K, saluti Roberto, dai, ce la risentiamo alle prossimine. Chi c'è altro qua? Io ho appena acceso. KK, ma te lo danno un'altra radio? Sì, ci va bene. Giuseppe Antonio di Sorso, ci sei? Vabbè, più nessuno in occhi. Claudio? KK, dai. Ok, dai, io vi devo lasciare perché devo andare a lavarmi, perché sono tutto il giorno lavorando. Sono arrivato stanco. Quindi ok, dai, dai che ce la risentiamo, ok? Ciao ciao, ce la risentiamo. Dai, vi saluto, vi vado a lavarmi che sono una merda, cioè sono tutto sporco, sono appena tornato da lavoro. Ciao ciao. Tutti già mangiando, state, vabbè. venisse un rinoghi. Che è? Yeah.